Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Non sono assolutamente d'accordo con quanto dichiarato da Fiorella Mannoia a proposito delle donne, perché lo stato di ognuna di noi dipende da come ci si lascia trattare. Non mi ritengo sminuita né tantomeno inferiore o superiore a nessuno, donna o uomo che sia. Credo che sia ora di smetterla di piangersi addosso. L'era del femminismo è finita. È uno stato patetico. È vero, donne in politica ce ne sono poche e le quote rosa ci sminuiscono ancora di più, perché è come se fosse una corsia preferenziale. Ma quale dignità lesa? Da chi? Forse proprio dalle donne che si sentono lese. Io pratico arti marziali e i miei compagni di palestra mi rispettano perché mi faccio rispettare. Basta piangerci addosso. Se qualche donna crede di non essere rispettata, deve darsi una mossa. Cristina, ex atleta della Nazionale Karate. A me sembra che il gruppo Mannoia Donne Filosofe di Repubblica nasconda un moralismo imbarazzante. Si sono battute per anni per l'autodeterminazione delle donne e poi, quando una donna si autodetermina, mettiamo, andando con il premier, accade lo scandalo. La colpa allora è del potere degli uomini, ma ipocritamente non si menziona la scelta delle donne. Allora la libertà di autodeterminarsi è solo in un senso, quello ideologicamente corretto, il loro. Roberto. La Mannoia dovrebbe andare a vedere i casting per le svariate trasmissioni e forse si renderebbe conto che la mercificazione del corpo rappresenta la normalità per una moltitudine di ragazze disposte a tutto pur di ottenere una parte. Marco. Chi è Fiorella Mannoia? Una donna che ha avuto la fortuna di avere una bella voce. Quali altre capacità di intelligenza o culturali ha mostrato? Nessuna differenza tra lei e le veline, salvo che alcune di loro sono anche laureate. Come sempre, le donne sono le prime nemiche della loro categoria. Felice. Ma nel Medioevo cosa contava? Soldi, potere, sesso. E nel 1700 cosa contava? Soldi, potere, sesso. All'inizio del 1900 cosa contava? Soldi, potere, sesso. 20 anni fa cosa contava? Soldi, potere, sesso. Durante il governo Prodi i programmi televisivi erano forse diversi? Le donne facevano forse più carriera sulla base delle loro capacità? Magari. Laura, Genova. Se ho ben compreso il motivo della polemica, il direttore d'Arcais ha scelto di non partecipare a un evento, vista la presenza del presidente del Senato, Schifani, al quale d'Arcais non gradisce stringere la mano. Il motivo di tale rifiuto nasce da un'inchiesta svolta dal giornale Il Fatto, all'interno della quale si ripercorrono i trascorsi professionali del presidente Schifani, che agli inizi degli anni 90, in qualità di legale, difese un costruttore che realizzò un complesso edilizio all'interno del quale successivamente soggiornarono noti esponenti mafiosi. Il direttore d'Arcais si duole del fatto che tale sconvolgente notizia non sia stata ripresa da tutte le testate giornalistiche e si duole anche delle mancate dimissioni di Schifani, che in un paese normale sarebbero avvenute immediate, anche per molto meno. Quindi, niente stretta di mano. Ci sono alcune cose che, a questo punto, vorrei capire. In Italia, dove fino a prova contraria chiunque vada in giudizio ha diritto ad una assistenza legale, svolta nel migliore dei modi e con la massima professionalità, dovremmo stabilire che un avvocato non può più difendere i cattivi, pena la perdita quantomeno della stima e della gratificazione di una stretta di mano da parte dei buoni. La professione di avvocato dovrebbe forse essere regolata con due categorie? Quelli che difendono gli onesti e quelli che difendono i delinquenti? Questi avvocati sarebbero pochi reietti che sicuramente non potrebbero più accedere alle cariche pubbliche. Il presidente Schifani, colpevole di aver difeso in giudizio un terribile speculatore edilizio, si sarebbe dovuto dimettere professando un mea culpa, dicendo «Nella mia carriera legale ho commesso gravi errori. Avrei dovuto difendere solo persone innocenti». Le testate giornalistiche avrebbero dovuto rendere nota tale notizia riprendendo l'inchiesta del Fatto senza chinarsi supinamente al potere e alle logiche di partito? Su quali basi? E infine, cosa vuol dire in un paese normale? Qual è un paese normale? Mi chiedo se non vi sia eccessiva animosità partigiana da parte di alcuni che, pur di colpire l'avversario politico, utilizzano pretestuose motivazioni. Se, per esempio, il presidente Schifani fosse stato un cardiochirurgo, avrebbe dovuto forse evitare di operare dei delinquenti? Stefano, da Napoli. Mi riallaccio alla polemica sul processo breve. Berlusconi dice che se i magistrati lavorassero, e io aggiungo in ufficio e non da casa, i processi si accorcerebbero. Qualche sera fa in un telegiornale è andato in onda un servizio dove si parlava di un magistrato milanese che, impietosito dagli astici del ristorante dove consumava la pausa pranzo, ha pensato bene di lavorare per 4 anni a nostre spese, fino ad arrivare a mettere in piedi un processo contro il ristoratore per crudeltà contro le aragoste. Il magistrato ha dichiarato che non si fermerà fino a che non vincerà. Io, che a mezzogiorno mangio un panino, direi che magari, invece di pensare agli astici, forse sarebbe meglio pensare alle cause che vanno avanti da 20 anni. Mauro, Torino. Egregio direttore, oggi se si parla di evasione si dice che uno o è furbo o è ladro. Entrambi sono aggettivi evidentemente con accezione negativa. Ho sentito più volte l'espressione «portano fuori illegalmente soldi provenienti da evasione fiscale», il che è assurdo. È semmai l'atto di portare fuori che è evasione fiscale, ma i soldi guadagnati in precedenza non sono frutto di evasione, bensì del lavoro delle persone. La differenza non è da poco. O ancora si parla di paradisi fiscali, senza spiegare che questi sono semplicemente paesi che hanno scelto di tassare i residenti per quanto consumano e non per quanto producono, e che in un mondo globalizzato non c'è nulla di illegale, né tantomeno di ingiusto, nel produrre o anche risiedere dove le tasse sono più basse. O ancora, viene usato il termine evasione quando procedure come aprire una società all'estero sono in realtà al massimo elusione, un comportamento non solo consentito in altri paesi, anche europei, ma per il quale esistono grandi istituti di consulenza fiscale che operano alla luce del sole. O ancora, non si parla di dove va a finire il nero. Se uno si compra una barca, questo gesto non dà forse lavoro ad aziende italiane e quindi ad operai italiani? Non è forse vero che l'Italia, se non fosse per l'evasione, starebbe molto peggio? Insomma, le tasse sono imposte, il nome viene da lì, e se all'interno di una comunità ci dovrebbe essere solidarietà, questa non la si può imporre, perché la solidarietà vera nasce dal cuore ed è libera e volontaria, mentre la solidarietà imposta, a casa mia, si chiama pizzo. Essendo imposte, credo che, come minimo, il dibattito sul fisco, sull'evasione, ma anche sulla pressione fiscale, dovrebbe essere tenuto su un piano oggettivo e non parziale. Esistono paesi, come le democrazie del Nord Europa, che hanno costruito un sistema per cui tutto avviene nello Stato e hanno quindi regimi di tassazione molto alti, ma anche livelli di servizi adeguati. Esistono altri paesi che hanno preferito lasciare la tassazione al minimo, tassando i consumi, cioè si paga per il servizio che si usa. Non credo che un dibattito serio sul fisco possa ridursi solo al fatto che la qualità dei servizi è bassa rispetto alle tasse pagate, ma dovrebbe includere anche l'opzione di ridurre e tagliare i servizi che lo Stato offre, a fronte dei servizi corrispettivi che il mercato può offrire. Non parlo di risparmiare qua e là sulla cancelleria, ma di tagliare e di smettere di offrire determinati servizi. Marcello. Caro Marcello, il dibattito sulle tasse e sull'evasione fiscale resta certamente di grande attualità. Premesso che pagare le tasse è un dovere civile e morale di ogni cittadino, bisogna anche ricordare che lo Stato non dovrebbe offrire nessun alibi, nessuna giustificazione a chi può trovare la possibilità di evadere. E in questa prospettiva stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione. Il problema non è nuovo. Nel 1938 Luigi Einaudi, nel saggio Miti e paradossi della giustizia tributaria, scriveva che un'imposta non è moderna se non è congegnata in modo da far riempire al contribuente grandi moduli, da fargli correre in ogni momento il rischio di pagare qualche multa, da rendergli infelice la vita con minuti fastidi e con la privazione delle comodità che gli si è procurato attraverso una lunga esperienza e che non fanno male a nessuno. Era Luigi Einaudi, 70 anni fa. Molta acqua è passata sotto i ponti, ma il rapporto tra fisco e contribuenti è ancora un problema. Il populismo è indubbiamente un'arma legittima per strappare consensi, a destra come a sinistra, ma il suo utilizzo è pacchiano. Vedi la brambilla e le sue visioni di un'Italia con l'emergenza cani randagi. È stata rassicurante, credevo che il vero problema fosse l'influenza A. Vedi Brunetta che a Gubbio divide il mondo in buoni e cattivi, che altro non sono che servitori e disobbedienti. Giovanardi, che invece di tacere e aspettare il giudizio della magistratura, dice che un omicidio è stato causato dall'anoressia. La Russa, che paragona le carceri agli hotel a 5 stelle per lavarsi le mani da una possibile responsabilità istituzionale e scaricare la colpa sull'individuo deviato. Nell'opposizione, uno stile simile è appannaggio di Di Pietro, che si appella privatamente ai giornalisti stranieri, vedi Herald Tribune, gridando al regime, e sembra molto l'escluso dal gioco, che invoca al complotto non tanto per odio verso il regime, bensì perché non è lui a imporlo. Sembrerebbe che oggi in politica per distinguersi basti tacere, non peggiorare le cose, evitare il frastuono. Triste e amara sentenza per una classe politica che, ahimè, non ha più niente da dirci. Davide. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.